YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera e bentornati a Radio Tube, che è la terza ora del Sabato del Villaggio, ma mi cambio, mi metto quasi l'abito da sera. Ma sai che è bellissimo questo Sabato del Villaggio? Sì, io sono piace. Lì che vi sento in macchina ogni tanto al lavoro, oggi al lavoro, ma è proprio bello. Bello, mi piace. Mi piace, è vario. Tu sei contenta. Stanca alla fine? No. Sono distrutta. Distrutta. Sono distrutta come se avessi lavorato. Esatto, ma guarda che lavorare mi metto in forma, l'abito da cocktail sì, a quest'ora. Hai già detto quello che dici all'inizio sempre. No, dai, dillo tu. Allora, buonasera, bentornati a Radio Tube, la terza ora del Sabato del Villaggio, la nuova trasmissione di Radio 24, tutti i sabati dalle 15 alle 18. Che bravo! Invece, questo è il nuovo appuntamento di Radio Tube che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana, tra TV, web TV, social TV. E non l'hai ancora imparato a memoria? No, io leggo sempre perché magari tu hai cambiato qualcosa, voglio vedere se la trama cambia. No, è sempre uguale. Ad esempio, sono uguali i nostri account di Twitter. Vabbè, chiocciola Marta Cagnola, lo ripeto sempre, sì? Chiocciola di Bellasio e l'hashtag Radio. E invece l'altro è hashtag SDV, perché il Sabato del Villaggio è un po' lungo. Un po' lungo. E quindi, come le serie americane fanno l'hashtag con le iniziali, io faccio uguale. L'hashtag con le iniziali. Anche Escita, il famoso Escita che è Eurovision, no? Eurovision credo, Song Contest. Sai allora, che la prossima settimana c'è quello dei bambini. Cioè l'Eurovision Song Contest cos'è? Dei bambini è divertentissimo. Vabbè, lo Zecchino d'Oro International globale, Bildenberg, lo Zecchino d'Oro di Bildenberg. Volevo vabbè. Andare a Malta, ma non ma ci andrò perché sono al Sabato qui, del Villaggio. Il Sabato del Villaggio con i miei ascoltatori, quindi sono ancora e anche più con un sacco contenta. Di colleghi simpaticissimi. Io volevo dirti questo, sono molto contento della scaletta che hai fatto, perché sarai costretta a ridire la protagonista del video americano. La settimana scorsa avevamo parlato del video di mi viene da ridere perché, perché tu lo stai dici aspettando alla che bolognese, lo dica. Ma si chiama Shoshana. Se Shoshana. Si chiama Shoshana non è che me lo invento io come no, si chiama. Però puoi anche dirlo senza la S Brianzola. Si chiama così lei. Insomma, Shoshana. Stiamo seri. Sì, perché l'argomento è perché serio. L'argomento è serio. Quella ragazza che si era vestita in maniera non particolarmente procace era in maniera... Però era tutta attillata, nera. Nera quindi... però dai, non vabbè, era non attillata. Era, non era molto appariscente, dai. Era un po' formosa e il vestito molto attillato. Però io normale. Sono normale, dai, normale. Ha fatto una passeggiata con una telecamera nascosta che la seguiva per davanti, le strade di sì. New York e gli apprezzamenti erano tanti. Sì. Alcuni, beh, insomma, più innocenti, altri decisamente più fastidiosi. Ma sì. Chissà cosa succederebbe se si facesse in Italia. Io me l'aspettavo che sì. Qualcuno poteva pensare di fare la stessa cosa. L'ha fatto Rachele Brancatisano, 26 anni, quindi anche l'età giusta. Magari l'avessi fatto io, mi avrebbero vabbè, siete quasi un po' meno. Sì, più o è meno. Andata in giro nel Sabato del vestita villaggio. Nello stesso modo, uguale. Maglietta nera, pantaloni neri in giro per Roma. Sì. E le reazioni, beh, sono in un video che dimostriamo per qualche istante alla tu radio. Qui hai scritto un po' più educati di New ma York. Pare, ascoltiamo un po'. Ehi, amore, scusi. Tutti bello, ma quello è bello. Manca un abbraccio, niente. Vabbè, insomma, mio amore, come stai? Qualcuno le chiede single in Rome. Ah, bella, ciao bella, vabbè. Uno le dice, ma gli angeli non volano? Sai carino. Questi bassi, insomma, dai, lo dicono a tutte. Cosa devo dire? Anche qui, alcuni sono innocenti, alcuni sono fastidiosi, alcuni sono, ti posso confessare, talmente fastidiosi che io ho provato veramente tanto... È il dramma del tono. Ma il dramma nel senso quasi cinematografico della parola, è il tono che dice tutto. Sì, tanti, lei è stata in giro 10 ore e sono oltre 100 le persone che hanno cercato più o meno un approccio e devo dirti che, non lo so, per alcuni ho provato veramente molto fastidio per lei, soprattutto qualcuno che le diceva, ma neanche un abbraccio, non lo so, è un esperimento molto interessante. Chissà quale sarà la prossima città. Guarda, già è successo, perché l'hanno fatto anche al Cairo e a Bruxelles. Ah. E quindi lo stanno quindi un po' facendo avanti in tutte la settimana. Io non voglio parlare dell'argomento successivo. No, però dobbiamo dirlo non che l'argomento parlarne. Più discusso in rete questa settimana non insieme alle oche di cui parleremo tra poco è stato il gelato. Non ho idea. Non ne voglio parlare. Non ti ascolto. Il ministro Marianna Madia che ha mangiato un cono gelato. Non ti ascolto. È stata fotografata su chi... Non accetto provocazioni. No, io non ti ho interrotta. Però sentiamo come il direttore di chi ha spiegato ai microfoni di fanpage.it questa scelta del gelato. Alfonso Signorini. Anche oggi, cioè oggi sono su tutti i siti per il mio servizio a Marianna Madia che mangia il gelato, la macchina del fango, cioè veramente, a parte che da tutto questo io ho imparato che la gente ha bisogno di farsi un sacco di gelato, piantiamola di dire ste cazzate, perché voglio dire, cioè una persona, allora cioè, si è andati avanti a parlare per anni del Calippo della Pasquale, allora parlare del Calippo della Pasquale sì, parlare del ministro che mangia il gelato è delitto di lesa maestà, no, non ho capito. Niente, Daniele Bellase non vuole prendere posizione su questo gelato gate. Sai che però poi è diventato, o meglio, hanno provato a far diventare virale l'hashtag ci so fare anch'io, perché il titolo era ci sa fare col gelato, sì, e alcune ragazze si sono... Però che noia voler sempre non voglio avere idee, sull'argomento. Finto. No, dai, qualcosa, ma almeno delle oche mi sai dire qualcosa? La vicenda delle oche è più complicata, perché c'è di mezzo tanto, c'è un'inchiesta giornalistica, ci sono aziende importanti, c'è il Made in Italy che poi non sono d'accordo, dobbiamo riflettere sul tutto. Tra poco parleremo allora di questa puntata, ecco, di Report dedicata, lo sanno tutti perché in rete ha scatenato il putiferio, a Moncler, all'azienda, allo spiumaggio delle oche, tantissime polemiche. Smentite. Sì, io ho scritto un tweet. Hai scritto un tweet? Ma io ho scritto un tweet abbastanza innocente, non era né contro che la Gabanelli. Non ti ho seguito su questo punto. Non mi hai seguito molto male, adesso mi arrabbierò con te durante. Non è che posso seguirti ovunque. No, invece dovresti. Comunque, no, io semplicemente ho detto che era un peccato che ci si fosse dedicati a una sola azienda, anche perché nel momento in cui ci si indigna per lo spiumaggio delle oche, tutti poi dicono boicottiamo quella e compriamo quelli di altri senza sapere se che, poi... Chissà chi gli altri che cosa va... Esatto. No, ma infatti è il concetto dell'indignazione schiacciando il click che dà un po' fastidio. Allora tra poco un video e proprio per te. Radio Tube. Rieccoci insieme con Radio Tube, che poi è anche la terza ora del Sabato del Villaggio. I nostri account di Twitter, @DiBellasio, @MartaCagnola, il nostro hashtag Radio Tube. Abbiamo anticipato l'argomento di cui ci saremmo occupati in questo blocco poco prima del traffico, le oche. Non possiamo negare che è stato uno dei fenomeni della rete di questa settimana. Dubbio, perché Report, la trasmissione condotta da Milena Gabanelli, ha mandato in onda un servizio dove si raccontava che in sostanza vengono prese da oche vive. Le piume. Per fare dei prodotti di abbigliamento. Ascoltiamo, anzi vediamo insieme alla radio qualche secondo di questa inchiesta di Report. Gli ungheresi sono molto ospitali, purché non si metta il becco in una delle principali voci della loro economia. Dell'oca non buttano via niente. L'Ungheria è seconda soltanto alla Cina nella produzione annuale di piume e piumino d'oca, che esporta grezzo selezionato in categorie per leggerezza e prezzo. La destinazione finale è sempre imbottire qualcosa, piumoni, cuscini e capi d'abbigliamento. E questo era l'inizio della puntata Siamo tutti oche di Sabrina Giannini. Scatta l'indignazione, quindi, l'hai detto, no? Il problema fondamentale della tutela degli animali nel mondo è lo spiumaggio da vivo delle oche. Ma soprattutto, cioè, gente che mangia tutti i giorni carne, gente che mangia tutti i giorni foie gras, tutte quelle cose lì, però improvvisamente questo è il problema su cui si deve fermare il mondo. Sei un po' cattivello, vorrei dirti che non solo sei cattivello, ma sei d'accordo con Pinuccio. Sai che ha detto la stessa cosa, il nostro virale Alessio Giannone. Mitico, l'abbiamo avuto. Straordinario, l'abbiamo avuto al telefono. Sentiamo il video a proposito delle oche di Pinuccio. Difendiamo le oche, le oche, le oche. che... Scusi, che sta facendo? No, ho sentito il fatto là che hanno fatto vedere alla televisione che le oche vengono sfruttate, trattate male, spellate, vive... E non è giusta sta cosa, e allora io mi sono messo che devo difenderle, scusa, è un diritto pure degli animali, Ma lei che giubbotto ha? No, io ho il giubbotto di pelle. Ma sa che sfruttano gli animali anche per Vabbè, quello? Ma che c'entra? Mo si sta parlando di questo, ho già buttato il piumino, non è che posso buttare pure il giubbotto. Una cosa alla volta. Sa che i telefonini vengono fatti sfruttando la manodopera cinese? Ma c'entrano mo i cinesi, scusa. Cioè, poi non lo so, senza cappotto, senza telefonino. Poi questo sta mo. Non è che uno può vivere così, senza niente. Una cosa alla volta. Perché non scende in piazza per i disoccupati o per i poveri? Oh, ma lei è proprio un rompipalle, però. Scusa, cioè, lei vuole mettere mo a mettere la foto, che ne so, di un povero o di un disoccupato sopra Facebook. È la foto dell'oca. Cioè, prendo molto più mi piace su questa cosa. Lei deve pure capire che la foto dell'oca che ho messo ha preso un sacco di mi piace. Questa cosa mi ha spinto a venire a scendere in piazza a favore loro. Scusi. Insomma, hai detto la stessa cosa di Pinuccio. Ma perfettamente ragione. Cioè, era l'indignazione della settimana. Ma va onde come i social network. I social network si pensa che siano delle onde, no? Allora io dico, adesso facciamo una onda tutti di... Come quando da tu andavi nei villaggi turistici? No, io mai. Nei villaggi turistici c'era l'animatore. Il più... Tu hai fatto Non è che devi raccontare i fatti nostri, che non interessano a nessuno. Ma no, gli ascoltatori interessa. Ha fatto il DJ, Vabbè. Allora, l'animatore più sveglio, più capace, più bravo con Bellasi, i social network. No, io ero un tecnico del suono scuro. Tra l'altro non si poteva neanche ballare. Vabbè, ma comunque. Allora, prendeva in mano il microfono e iniziava a dire: alzate le mani. E tutti alzavano le mani. E adesso fate il trenino. E tutti facevano il ecco. Spesso sulla rete accade questo, anche per tematiche giustissime. Sì, perché questa è sacrosanta. Certo, il problema è che poi vanno a onde, per cui dopo, siccome quell'onda lì è andata, fra 15 giorni alle oche si potrà fare qualunque cosa nel silenzio del social network, no? Verissimo. Quindi Pinuccio ha delle ragioni. Possiamo dire anche che le oche hanno delle loro ragioni. Le oche hanno molte ragioni. Che cosa? Intanto diciamo che l'azienda ha risposto e ha anche messo in rete il codice etico. Sì. Ma anche qui, insomma, le polemiche, forse ha inserito questo punto del codice etico sapendo della puntata di Report. È un po' difficile scoprirlo. Ma cosa possono fare le aziende? Io ho trovato una cosa molto interessante, mi è piaciuto molto, perché sul canale YouTube dell'Università Bocconi, sì, il canale Uni Bocconi. Cioè, vedi, io parlo dei villaggi turistici e tu della Bocconi, che cioè, triste, alla terza ora diventi un po' secchioncella, diventi diciamo. Un filo, ma con me, ma non puoi fare invece la vivace, vabbè. Non lo so, dietro sempre un po' secchiona con te. Perché è molto interessante, sì, il fatto che ci sia una sorta di editoriale dei professori, mi piace molto, è molto bello. Ci sono dei corsi universitari, l'università per esempio di Napoli. È molto molto bello. Il professore Enrico Valdani, docente di marketing alla Bocconi, ha fatto proprio un video su YouTube spiegandoci cosa deve fare in questi casi un'azienda. Molto lucido, mi è piaciuto veramente tanto. Un'attività di giornalismo d'inchiesta naturalmente ha messo in evidenza alcuni aspetti che hanno creato una crisi. Le imprese in questo caso devono reagire attraverso quella che è definita il crisis management, la gestione della crisi. In poche parole, cosa bisogna fare? Reagire immediatamente, quasi in tempo reale, con due atteggiamenti: riconoscendo la colpa oppure dimostrando e dichiarando che le cose per le quali è accusata non corrispondono al vero. Però queste cose devono essere dichiarate e dimostrate. Allora devono essere dichiarate e dimostrate, cioè le aziende si devono difendere tempestivamente, dimostrando però che si difendono dicendo il vero. Mi pare perfetto. Giusto, io però tenderei a dire che le aziende, in particolar modo sui social network e dintorni, non devono pensare di comunicare soltanto quando c'è un problema. Conviene instaurare un rapporto, a mio modo di vedere, continuo. Un po' come dicevo delle istituzioni quando c'è una crisi, un'emergenza, abbiamo visto il maltempo. Se tu instauri un rapporto continuo, intanto hai più follower, quindi comunichi a più persone il messaggio che tu vuoi dare, e inoltre instauri un rapporto di fiducia per il quale sei più credibile anche quando affronti una situazione problematica. Ti sono piaciuto? Poi sono io la secchiona. Ogni tanto mi stimoli su argomenti serissimi. Tantissimo. E quindi se io dico Moncler, vogliamo ricordarceli anche con un sorriso, nel perché... senso che hanno segnato, tu di che colore ce l'avevi? Allora, io il mio primo con Naio Leari, ammettilo. No, Naio Leari non era di Moncler, era di, no, era di però Gigi. Si mettevano i jeans con la fettuccina di Naio Leari e sopra il Moncler. Avevo tutto, c'è, cioè, il nostro Filippo in regia che aveva anche lui, aveva tutto. No, il mio, no, Moncler era Leari rosso. Non ce l'aveva. Ce la, aveva la toppa, diceva la toppa dietro i pantaloni. Vedi, la toppa dietro i pantaloni. No, il mio era verde. Lucido opaco. Era abbastanza lucido. Lucido, il mio era, triste, era rosso opaco. Lo ammetto. Come, beh, insomma, verde come? Lucido, però era come quello di Enzo Braschi. Sì, era come quello del paninaro. Paninaro. Sai cos'è successo? Anzi, insomma, io ero paninaro, ho 5 anni in ritardo, peraltro. Vabbè, come sempre, come sempre, mi capita spesso. Come sempre. A volte aiuta. Però. Cos'è successo alla 7? Sì. Durante la puntata di Ai Piroso, il programma quotidiano di Antonello Piroso, che un po' ospitava, di tempo fa. Sì, che sì. ospitava Enzo Braschi, sì. Ecco qua. Bene, siamo nel tratto finale del programma, dietro le telecamere, non inquadrato fino a questo momento, ma adesso l'Icitra sono certo che non mancherà. Scusi, Mentana, venga in onda. No, venga a salutare Braschi, che lei conosce da tempi. Noi ci siamo conosciuti. Ciao. Grande paninaro. Come ecco, stai? Allora facciamo vedere un contributo dei tempi loro, di quando si conoscevano. Ma perché siamo tutta quindi c'è il bianco e nero. Vogliamo vedere per cortesia un Braschi dannato, allora, grazie. Dannato. Vieni qui, dai, che ti porto in un posto troppo giusto. E lì ti rivolto come una tasca. Wild boys. No, la cosa fenomenale è che Braschi ripeteva anticipando il testo del monologo. E se posso permettermi di aggiungere, è anche l'unico che rideva. Ti ringrazio molto. Questo. No. Vabbè, ha perfettamente ragione Mentana, però voglio dire, Braschi era bravissimo, ha colto un personaggio, ha segnato un'epoca, ha raccontato un'Italia, però... non è che proprio facesse ridere, vabbè, no, ci accontentavamo, ma anche... no, avevamo forse un senso dell'umorismo, ci un filo rispecchiavamo. Diverso. Ci manca un po' Antonello Piroso, ma sì, sì, sai che pensavo, sì, la stessa cosa, quel suo condurre un po' ruvido, però lo fa su un sito fantastico, sì magari sì, lo chiamiamo un giorno, ci lo facciamo raccontare, sì, ci facciamo raccontare tutto da Antonello Piroso. Ma adesso abbiamo parlato di animali, abbiamo parlato di oche. Sai che adesso va di moda un altro animale? È la settimana degli animali. Siamo, no, adesso, tutti calabroni. Che poi sembra che vogliamo sminuire il problema delle oche, però effettivamente, dai, dopo l'oca ci sta bene il calabrone. Calabrone, sì, anche perché è il Presidente del Consiglio che l'ha detto, non è che e stiamo dove sminuendo. L'ha detto? Il Presidente del Consiglio, Vimercast. Tutta la trasmissione si regge su questo frangente, sul perché Renzi che... è andato a Vimercat a trovare Marta Cagnola. No, io ero qua in redazione, però Matteo Renzi è andato in questa bellissima cittadina, Brianzola, che si chiama Vimercate, e ha tirato fuori un nuovo animale. Ecco, dopo un nuovo hashtag. Ecco, il calabrone. Siamo pieni di gente che dice non ce la farete mai. Dice vai, ora riparte con la storia del gufo. No, cambio. La storia del calabrone, cioè di una cosa che non dovrebbe stare in piedi, non dovrebbe volare, eppure vola e punge anche ogni tanto, e fa anche male. Perché? Perché è capace comunque di vincere e di... violare tutte le regole del pessimismo. Beh, straordinario, mi è piaciuto il calabrone. Cioè, si fa l'autocritica, cambia la sceneggiatura e ricasca nella stessa cosa il calabrone. Vabbè. Fantastico. Comunque, ti ricordo che da un po' di tempo che di Renzi parli tu, lo tiri sempre tiro fuori sempre tu. Sempre fuori io, è impressionante. Sì. YouTube. Ori, eccoci insieme dopo la pausa. Hai visto quanta gente in regia? Ma c'è, cioè, il sabato del villaggio è animatissimo, ma arrivano bellissimo, tutti. Ci sono tutti. Sai cosa? Ci sono due cose che ci piacciono tanto. Si possono dire, sì, ovviamente. Sì, quelle che Winter? Si possono dire. No, no, no, allora, no. Gaber, citato da Renzi, no. No, i talk. I talk, politici soprattutto. E a me poi, più politico, a te più culturale. Meno politico. E poi i The Jackal. I The Jackal, che tu hai lanciato perché porti bene. Portiamo bene, sì. Radio e Tube quindi porta noi bene. Abbiamo al telefono? No, abbiamo intanto qualcosa che mette insieme i The Jackal e... I talk politici. Praticamente. Vediamolo. Cos'è? Praticamente da giovedì 13 novembre sulla 7 andrà in onda la nuova stagione di Anno 1, il programma però. Sì, condotto da Giulia Innocenzi, che ha girato il promo proprio con i The Jekyll. Lo mostriamo alla radio? Yes. Salve, buongiorno, sono Giulia Innocenzi di Anno 1. Vorrei parlare con il giovane italiano senza futuro, in casa? Sì, sono io. Ciao, sei disoccupato? Certo, è ovvio. Vivi ancora con i tuoi? Non se ne vanno. Perfetto, ti contatto per informarti che il 13 novembre alle 21.10 sulla 7 riparte Anno 1. Mi confermi che sarai dei nostri? Ma io... Allora ti aspetto giovedì sera per far sentire a tutti la tua voce. A presto. Pronto? Salve, buongiorno, sono Giulia Innocenzi di Anno 1. Posso citare Bella Vasco Rossi? Sì, citalo. Brava Giulia. Brava Giulia, una... che magari... Ma abbiamo il telefono? Ma sai che sì? Ma abbiamo, abbiamo il telefono Giulia Innocenzi. Buonasera Giulia. Ciao a tutti. Quanto ti sei divertita a fare l'attrice? Un sacco. Sono andata da loro a Napoli e mi sono veramente divertita tanto. E poi mi hanno anche offerto la pizza alla fine. E mi hanno mostrato a Napoli quelli che vanno in giro col casco, perché era nata una piccola polemica fra noi e quindi ci siamo morti dalle risate. Ma soprattutto i The Jekyll saranno con noi per tutto Anno 1. Abbiamo fatto lo spot con loro per inaugurare la nostra nuova collaborazione. Ogni puntata vedremo una chicca dei The Jekyll. Cioè, brava. Una chicca cosa? Qualcosa, cioè uno sketch o sono lì dentro? Sì, ogni settimana loro prepareranno un video rispetto alla grande domanda, al tema della puntata di Anno 1, e quindi inauguriamo la nostra collaborazione. Ok, dunque piace. Sei molto tesa? Allora, abbastanza tesa. No, perché siccome l'anno scorso all'esordio sei andata così bene, insomma il talk show rinasce grazie a facce nuove, idee nuove, la gente in studio, un format diverso, quindi quest'anno bisogna confermarsi. Allora, innanzitutto mi autodenuncio subito, purtroppo da quando faccio questo mestiere sono diventata di uno scaramantico micidiale, quindi ti ringrazio tantissimo perché sono in mezzo alla strada e sto facendo dei riti che fra un po' mi porteranno alla neuro. Ecco. Però a parte questo, l'esordio è molto meglio del secondo episodio, perché l'esordio nessuno si aspetta niente, noi abbiamo fatto questo esperimento, è andato bene. E quindi adesso insomma c'è da andare ancora meglio. Noi però quest'anno siamo ancora più combattivi dell'anno scorso, quindi giovedì. Cioè più combattivi in che senso? Ancora grandi liti come Travaglio Santoro, grandi liti? Ma più che grandi liti, grandi ragazzi in studio, grandi ospiti che si confronteranno con loro, queste belle collaborazioni con i The Jekyll. Poi giovedì avremo anche una grande sorpresa, perché ospiteremo delle persone che portano avanti delle battaglie, una campagna particolare. Voglio lasciare la sorpresa, però sono orgogliosissima. Cioè, la notizia è che non hai Matteo Renzi, è una novità assoluta nei talk show. Non avrò Matteo Renzi. Però dubiti, stai dubitando. Però chissà, ha detto. L'anno scorso siamo partiti con Matteo Renzi. Sì. Quest'anno magari per cambiare, chissà. Io sai chi vedrei bene, visto che abbiamo appena parlato? La Boschi, io ce la anche vedrei bene. Anche lei, strano, non si sarebbe vede. Sarebbe molto interessante vederla confrontarsi con i ragazzi, infatti l'invito è già partito e come tanti altri inviti aspettiamo la risposta. Sì, anche qui a RadioTube se vuole venire il ministro. Certo. Senti, Giulia, è bello questo fatto che tu abbia usato così bene finalmente la rete. Perché, allora, i The Jekyll hai presentato ieri la trasmissione in diretta streaming. E anche questa è una bella cosa nuova. Come la direzione del PD. Sì, come la direzione del PD, Giulia. No, ma poi noi abbiamo tutta una vita parallela della trasmissione che va sul nostro sito. Per esempio, già l'anno scorso avevamo i ragazzi che dopo la trasmissione continuavano a litigare su internet facendosi video di botta e risposta. Quindi diciamo che su internet pullula la vita di Anno 1 e ci divertiamo proprio un sacco. Quindi pullula. A proposito, abbiamo parlato della Boschi, vorrei mostrarvi quello che è successo invece a servizio pubblico, beh insomma siamo in famiglia, hai citato Travaglio, il famoso editorialone di Travaglio che ha parlato appunto di Maria Elena Boschi. Allora, come è poi finita quella storia delle adozioni bloccate in Congo e sbloccate da Matteo Renzi e dalla ministra Boschi? La scena ce la ricordiamo tutti, no? La ministra Boschi a Ciampino che scende dalla scaletta dell'aereo di Stato. Abbiamo visto proprio plasticamente la Madonnina personale di Renzi che ascendeva al cielo anche se non si capiva bene che cosa c'entrava lei, se n'era occupata la ministra degli esteri Mogherini, che però non è né troppo telegenica né troppo renziana, e infatti l'hanno murata viva proprio alla Farnesina per non rubare la scena alla Lady Di di Noantri, no? E sembrava quasi di essere di fronte alla risposta italiana ad Angelina Jolie. Spietato, parlando anche della... Anche un po' ingiusto, visto che la Mogherini nel frattempo è diventata Lady Pesk, non mi pare che l'abbia proprio nascosta. Beh, però quella volta lì, dai, era vero che l'aveva un po' murata. Avrà avuto un impegno istituzionale. Vabbè. Ah, dice che era lei che non aveva tempo? Sì, c'erano altre persone del governo, vabbè. Solo che i giornalisti, sì, vabbè. Allora, avevamo parlato tanto di questa cosa della comunicazione, del parliamo in continuazione della capacità di usare le immagini, la rete del governo Renzi. No, del governo, ma che del governo? Di Matteo di Renzi. Matteo Renzi. Di Renzi che, vabbè. È il più vicino. Vicini a Renzi. Esatto. Giulia, ma i ragazzi, visto che tu parli con loro e li fai parlare ad anno uno, per loro questo modo di comunicare, cioè noi apprezzano. Ci facciamo delle domande, ma loro che reazioni hanno? Loro hanno proprio un modo completamente diverso di vedere la comunicazione, la rete. Posso essere brutale? Certo, essilo. Che rispetto ai tweet dei nostri politici non gliene frega niente. Oh, ecco. Cioè, dobbiamo guardarci in faccia. Un tweet di Fedez per, diciamo, la fascia dai, che ne so, 14 ai 25 è molto più importante di un tweet di Renzi, nel senso che lui politicamente in quella fascia di giovani lì incide molto di più di Renzi, per esempio, dico a livello di dibattito. Generazione di, sono preparato. Ma più che boh, perché giustamente non hanno più interesse in quello che dicono i politici, perché non hanno fiducia, non sono coinvolti ideologicamente, quindi io non li biasimo, capisco in pieno, però Renzi, utilizzando anche i loro strumenti, chiaramente ci prova, questa è una sua sfida. Dopodiché la critica che io muovo alla comunicazione, a tutta la macchina di Renzi, è che è troppo basata sul marketing, quindi era anche la critica che faceva Travaglio all'operazione Bambini Congolesi, le treccine e l'aereo e la Boschi. Va bene, però poi alla fine infatti ci sono 130 famiglie che aspettano, quindi tutta questa macchina del marketing che dietro nasconde il boh, che dicevi te, per i ragazzi. Però ma quali saranno i temi a questo proposito allora che tu porterai al centro di anno uno, visto che, diciamo, mi sembrava che tu stessi dicendo poi in realtà le cose che contano sono altre, quali? Sicuramente il lavoro, quindi ho la fortuna di avere 20 giovani al centro dello studio, si parla sempre di disoccupazione giovanile, però magari ne parlano quelli che il lavoro ce l'hanno oppure quelli che hanno dai 50 in su, quindi sicuramente il lavoro ne parleremo e sarà centrale, l'immigrazione perché è sempre un tema latente e l'avevamo trattato anche nella prima stagione di anno 1, e poi però vogliamo sperimentare quest'anno anche temi che riguardano più i diritti, per esempio i figli delle coppie omosessuali, oppure anche la libertà di scegliere di morire, cioè, cercheremo anche di aprirci a tematiche che per il momento godono di una grande vita virtuale ma televisiva molto poco. Giulia, lo scenario in generale sui talk, noi ci scherziamo tutte le puntate, il talk è vivo, il talk è morto, però in questa stagione è un po' cambiato, non c'è più garanzia di alti numeri. Tu come la vedi questa situazione? Dal mio punto di vista, visto che parto giovedì, ovviamente con una grande scaramanzia a parte, sì, diciamo. No, infatti. Scaramanzia a parte, se vi devo dare, no, diciamo, parliamo di quelli degli altri, no? Non di quelli per altri. La situazione in generale, più che il talk è morto, il talk si è moltiplicato all'infinito, quindi se alla fine andiamo a vedere la somma che fa Ballarò più di martedì e la somma che fa per esempio servizio pubblico più virus, porta alle cifre dell'anno scorso. Si fa sempre 10%, il pubblico, sì, dei talk show è 10%. Che è cambiato tanto, però questa moltiplicazione all'inverosimile ha fatto sì che tutti si sono sfibrati, e gli ospiti sono sempre gli stessi, dicono sempre le stesse cose, quindi a maggior ragione in un momento in cui la politica si è molto calmata, nel senso che ci siamo tutti un po' affidati a Renzi e non c'è una grande contrapposizione nella politica, mentre per esempio una grande contrapposizione che c'è è fra Renzi e il sindacato, Renzi e il lavoro e via dicendo, però proprio in un momento in cui la politica non è caldissima ci sono 100.000 talk e questo fa sì che tutti perdano un po' di valore. Sì, è vero, io sottoscrivo integralmente quello che ha detto Giulia. Giulia, allora l'appuntamento è dal 13 novembre, tutti i giovedì. Ma viene Michele, tipo la prima puntata, Michele Santoro viene. Ma Michele con la sua anteprima aprirà tutte le puntate di Bene. Ecco, non sentiremo la nostalgia, grazie mille Giulia, ciao. In bocca al lupo. In bocca al lupo si può dire. Sì. Grazie Giulia, grazie, presto. Ciao. Oh, mi piace un sacco questa crepi, dell'innocenza. Crepi, un modo di dire, sì, no? Perché che poi con gli animali abbiamo visto. Sì, infatti, no, esatto, infatti, esatto. Radio Tube. Come vola il tempo quando ci si diverte, sì. Al sabato, guarda, del villaggio, tre ore volano. Guarda, tantissimo. Che generazione Bo, sì. È Fedez che canta. Ma mi stai diventando giovanissimo. È una canzone di Fedez, quella che tu. Dice I don't know. Va bene. Allora, come passa il tempo? No, non dire bene, che sono intonato. No, no, non è vero, non sì, è vero. Io ti ho quando sentito ero piccolo cantare... c'era l'insegnante lì del coro in chiesa che diceva, sì, sempre Bellasio, tu muovi solo la bocca. Tu muovi solo un grande classico. Grande. Allora, invece, tu non mi porti mai da nessuna parte. Quest'anno manco a Sanremo si va, perché tu devi stare al villaggio. Ma pensate, al facciamo villaggio. La puntata del sabato, il villaggio da Ma Sanremo. Cosa c'entra andare non via o non andare mai via? Non mi porti mai da nessuna parte e non mi hai portato alla festa della zucca di Piacenza. Sai e cosa c'entra la festa della zucca? Va bene che il sabato il villaggio si deve occupare di qualunque cosa, ma la zucca? No, la festa della zucca di Piacenza, cosa è successo? Che... Matteo Salvini, insieme al presidente della regione Lombardia Roberto Maroni e al candidato leghista Alan però Fabbri. Maroni era un po' istituzionale, non ha cantato proprio tantissimo. No, era un po' abballicchiato. Abballicchiato più che altro, brava. Visto che tu sei un grande fan. Comunque di Vasco. Salvini è in ascesa in un modo. Ma sai che canta anche bene. Allora cominciamo a ascoltare questa Alba Chiara, sì, questo Vasco questo Rossi alla festa Vasco. Della zucca di Piacenza. Perdonali. Piacciono questi molto perché... padani, molto. No, ma poi scusa, perché Vasco li fa, allora anche loro fanno ma infatti. Però ci parliamo sopra per sì, graziarli, no, per no, aiutarli. Poi vorrei anche dire che però Maroni era un po' impacciato secondo me, ma perché... che istituzionale, no, ex ministro dell'interno. Ma poi scusami, è un karaoke, lui avrebbe dovuto suonare, cioè lui è proprio... No, ma quando suona professionalmente lo fa in un certo modo, lì era un po' in imbarazzo, si vedeva. Però guarda, Salvini invece... No, ma Salvini canta bene, Senti qua. Pezzo, vabbè, quando ha preso la tonalità, aspetta. Ma sei stata brava. Aspetta, aspetta, senti, Però qui aveva sbagliato, no? Conte. Ha sbagliato. Allora, devi farla. Aspetta. Mangiato un'altra mela con i libri di scuola. No, ma comunque siete bravissimi insieme. Ma tu sei bravissima. Sei io una Salvini, conduttrice Salvini, radiofonica che fare... azzecchi. Mi sono sempre chiesto da casa, no? Come fanno a azzeccare di finire di parlare esattamente quando parte C'è un trucco, c'è un trucco. Ci sono dei conti alla rovescia, sai? Ma anche per l'inizio di una canzone? Certo. E tu l'hai fatto con Salvini, sei stata lì. Perché mi sono contata, guarda qua, quanti secondi. Ma ragazzi, ma qua si sta parlando di professionisti proprio A proposito di professionisti, sì. Record man della rete. Qualche giorno fa ero a casa, sì. Ed è tornato dal liceo mio nipote, prima liceo scientifico, sì. Come si chiama? Si chiama Nicolò. Ciao Nicolò. Nicolò, un amore. Ti siamo abbiamo. Vicini. Sì, la zia non è così cattiva. Va bene. No, allora siamo tornati tornato a casa, abbiamo pranzato insieme. Io gli ho chiesto che voti aveva preso e non aveva preso nessun voto. Meno è stato male. Sì, ha preso un 4,5, però solo uno, per il resto tutti sopra il 7, va benissimo, è tutto. Poveraccio, a un certo punto. No, ma non importa, tutto lo fa crescere. A un certo punto lui tira fuori il portatile e comincia a guardare dei video. Sì. Perché ai compiti si cominciano alle 3, intanto zia guardo dei video. Comincia a guardare un video e inizia a guardare un video di Favij, superstar. Guarda che io te ne parlo da tempo. Della rete, sì, dobbiamo invitarlo questo Favij. Milioni di decine di migliaia. Ascoltiamo, anzi guardiamo insieme un breve estratto da uno dei suoi ultimi video. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FaviJ. Oggi è la sera di Halloween, quindi ho pensato di fare un qualcosa di speciale per tutti quanti voi. È successo una volta, tipo qualche settimana fa, in un vlog, di fare una certa cosa che io ho fatto, ma nel vlog non l'ho messa, perché mi sono accorto che come cosa era abbastanza paurosa, ma veramente paurosa ragazzi, io non me lo aspettavo per niente. E si tratta di leggere un fumetto horror praticamente ragazzi, io non sapevo nulla, l'ho letto. Diciamo che questa parte qua nel vlog non l'ho messo, ho aspettato che arrivasse Halloween perché volevo proporvelo come video. Non è un video normale, è un video che dura poco però. Quindi ragazzi, direi che posso lasciarvi al video, ci vediamo tra poco. Cioè FaviJ ha 1.200.000 iscritti, sì, al suo canale. E lui racconta. Compreso tuo nipote. Sì, lui racconta. Cioè i ragazzi stanno lì. L'altro giorno lui stava guardando un video, mio nipote stava guardando un video in cui FaviJ parlava dei film dell'orrore e raccontava quelli che gli piacciono, spiegava. Allora io, vabbè, ho capito di essere troppo vecchia per entrare nello spirito, però non ho potuto far altro che dire, insomma, Nicolò, ti piace FaviJ? Prova anche tu a fare un videoblog, così ti diverti e impari anche tu a fare una cosa. No, perché diciamo nuova. Che c'è un sacco di creatività in questa cosa, perché ci sono il video che si muove, c'è l'irruzione dei cartoni animati dentro al video, poi questo torna al video, paura, poi c'è il monologo, questo faceva paura, disegni bellissimi. Insomma, un bel mondo cui noi ormai facciamo fatica a stare appresso. Infatti, cioè mi sento vecchissima pur non essendolo. Dolo, non ancora. Oh, questa settimana Viperetta è stato buono, è non abbiamo niente di Viperetta. Ah, no, è vero, non abbiamo trovato il nostro, niente. Tu non hai trovato niente. No, non però mi ha dato soddisfazione. Però in compenso il mondo del calcio ce n'ha sempre una. Infatti io speravo che mi segnalassi qualcosa di Viperetta, ne hai trovato un altro. Ma no, non è che ne ho trovato, ho guardato tutti, ma come gli è venuto in mente? Io sono uno che apprezza anche un po' di non politically correct. Come sì, si dice? Sì, unpolitically correct. No, incorrect. Politicamente corretto, sì, ok, well, correct. Mi prende in giro sempre. Vai avanti, Viperetta. No, dicevo, questo allenatore dell'Arezzo, che si chiama Ezio Capuano, il nostro convocato, che non è Ezio. È l'allenatore dell'Arezzo, squadra che peraltro a me sta molto a cuore, perché ci giocava tempo fa mio cugino. E niente, a un certo punto ha detto, no, perché qui contro l'Alessandria voglio... Insomma, vediamo cosa ha detto. Hanno perso contro l'Alessandria. Contro l'Alessandria, pare che abbiano perso. Non era contentissimo. Se avessero anche vinto sarebbe ancora più da biasimare. Ecco cosa ha detto. Io i giocatori che voglio in mezzo al campo, non è la prima volta, purtroppo in campo devono andare gente che ha la fase applicativa, abnegazione, non stava bene Buonvissuto, l'ho tolto, come non stava bene Erpen, quindi ho cambiato subito per tenere la squadra più alta e poi prendere quel gol fa molto male, in campo devono andare gli uomini con le palle. Non le checche in mezzo al campo. Gli uomini con le palle, non le checche, ma pazzito? Come gli è venuto in me? Ma qui sembra come se nel mondo del calcio si fosse aperto un rubinetto per cui si può dire tutto e via, dire, fare, baciare, lettere e testamento, tutto sì. Libero, capito? Comunque qualunque dice, cosa. Chiedo venia ma non scusa, perché c'è questa sottile, che non so, beh, adesso, il misogino, adesso andrò a tirare, no? Della scorsa settimana, no, dell'altra volta. Vado a tirare fuori il Devotoli, comunque chiedo venia ma non scusa, altrimenti ammetterei un errore che sinceramente non ho commesso, perché però non volevo mancare di rispetto a nessuno. Non sono omofobo né sessista. Sì, perché razzista. Lui ha provato comunque a spiegare che dire checca è una cosa diversa. C'è anche un'intervista al Corriere della Sera. Insomma, si fermava ad abnegazione. Voglio dei giocatori con abnegazione, tuttora già dire le palle. Con abnegazione, ma tu l'hai mai sentito? Insomma, il concetto si intuiva già abbastanza. Vabbè, senti, dobbiamo salutare gli ascoltatori. Salutiamo. Io volevo anche mostrare il video della giornalista. Sono queste tre ore. È come se le avessi fatte. Lui arriva alla fine ed è stanco. Non lo so. Perché, come dire, compartecipo, lo sai che ti sono sempre vicino anche delle tre ore sono. Del sabato del villaggio dalle 15 alle 18 tutti i sabati. Io intanto ringrazio Pietro Lacorte, che è stato in regia per quest'ora di Radio Tube. Ha sopportato molto più di me, quindi per quest'ora di Radio Tube. E noi diamo appuntamento al prossimo sabato per il sabato del villaggio alle 15 e alle 17 per Radio Tube. Intanto non abbiamo potuto parlare della telecronista sexy della TV serba. Sì, volevo, non abbiamo parlato in fondo, ma tanto era in serbo, tardi. Non vi siete persi nulla, perché l'audio era in serbo. Era scollata in serbo. Non era neanche tanto scollata, ma era molto carina. Niente, non la niente, mostriamo non la alla possiamo radio. Mostrare, arrivederci. L'appuntamento al prossimo sabato. Ciao. Alla prossima settimana.